FM. Pane, burro, rock and roll, sono le 8 del mattino. È lunedì? Sì. Pane, burro e rock and roll. Benvenuti nel mondo, ciao. La tua colazione rock. Là fuori c'è la vostra città che vi aspetta. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Lo dicevo a quei poveri sfortunati che puntano la radio sveglia su Rock FM. E allora mi sento sempre in dovere di trattarli un po' meglio, così alle 8. Vi siete persi la prima ora della puntata 160? Una puntata così, insomma, una puntata da lunedì post seratone, ecco. Tanti nuovi patentati che ci stanno scrivendo al 335-100-7777, ma stiamo perdendo veramente gli obiettivi di questa trasmissione radiofonica: trasformarvi in inviati del rock. Abbiamo tra l'altro segnato giustamente dalla redazione, venerdì avevamo il nostro amico Claude che doveva fare il provino per diventare cantante degli Iron Maiden, cantante di una cover band degli Iron Maiden. Bisogna sentire com'è andata. Poi avevo l'appunto per un nuovo inviato, ci sono inviati storici che non abbiamo ancora mai sentito. Abbiamo il sondaggione lanciato da Andrea 147 dedicato ai colletti bianchi, tra virgolette, a chi possiede un cellulare aziendale, che suoneria hai se è una suoneria rock, per sfatare il mito che vuole i rocker solo brutti, sporchi, cattivi e puzzolenti. Come al solito tanta roba da fare e come al solito non riusciremo a farla. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll. Down his nose. Three. maniera classica, in maniera quasi manieristica, passerei, se il maestro se la sente, all'appuntamento con i nati del giorno. Ricordiamo chi è nato il 14 di gennaio. Chi nacque il 14 di gennaio, ma di quale anno e di quale secolo? Partiamo nel 1622. Ah, so già dove vuole arrivare. Che morte, no, ragazzi. No, sono i nati del giorno. Sì, ma dico che morte. Cioè, accettato il fatto che tutti quanti purtroppo dobbiamo morire. Sì? Che bella morte, quella che avviene nel luogo in cui lavori. Io volevo fare gli auguri di compleanno a Molière. Ma infatti era lì che volevo arrivare, il grande Molière. Beh, morì proprio lui, grande drammaturgo. Sì. Grande drammaturgo, dov'è l'errore? Psicofarmaci. Sì, naturalmente, ne prendo aiosa, grazie. Dicevo, il grande Molière morì. Morì sul palco, mentre recitava. Quale morte migliore morte per un uomo di teatro, se non morire in teatro? Quale morte migliore per un meccanico, morire in officina? Sì, una roba così. Per un dentista, morire sotto il trapano. E per una massaia morire in cucina. Quello è più duro. O per uno speaker radiofonico venire fulminato sul microfono. No. Potrebbe essere. Soprattutto se insiste con questa metafora. Esatto, chiudiamo da me la parentesi morte. Scoperto. No, non la sto. Ariel. Si calmi. 1919, auguri di buon compleanno a Giulio Andreotti, il nostro politico di riferimento. Giulio, va bene. 1969. Ho dovuto dirlo. No, mi rivolgo al regista. Ho dovuto dirlo che perché cosa? Ariel ha in mano i fili scoperti e me li avvicina alla fronte. Uno dei miei rocker preferiti nasce oggi, ma nel 1969. Auguri di buon compleanno a Dave Grohl, storico batterista. La smetta con sta scossa. Ma mi fa male, mi sta facendo malissimo. Guardi, allora chiudiamo in bellezza. Chi era Dave Grohl? Sì, batterista di Nirvana e celebre rocker attualmente in circolazione con i suoi Foo Fighters. 1975, chi è questa? Taylor Hayes, mai sentita? Ma come? Non conosce la grande Taylor Hayes, attrice pornografica USA. Chiudiamo con la porno diva. Un'altra ragione di vanto per gli USA. Auguri Taylor! Devo dire, non posso nasconderlo, che ho un intero scaffale della mia porno libreria. Immaginavo. Un giorno mi farà dare un'occhiata? Assolutamente no. Do you wanna dance? Yeah! Well, you know you make me wanna shout. Now wait a minute. Festa di pane, burro e rock and roll. Proseguiva con Ciao di Lloyd Williams. Occupiamoci dei problemi reali. È duro in Italia essere una rockstar. È duro sbancare il lunario. E allora reparto precariato. Roberto Fricantoni, tecnico dei computer, non ci credevate, invece è così. E allora, signor Antoni, benvenuto nell'azienda Duse Electronic Corporation. Che mansione sa svolgere? Ma non per essere immodesto, signor direttore, ma so fare un po' di tutto. Quindi lei è esperto di computer? Ma sono un tecnico professionista, un vero esperto, è il mio pane quotidiano. E allora è assunto, buon lavoro. La ringrazio, direttore, non se ne pentirà. Salve, sono Freak della Duse Electronic Corporation, pronto a risolvere ogni qualsivoglia problema tecnico abbia il suo personal computer. Mi dica. Ha provato ad inserire la spina? Ha spinto il tasto power? Capisco. Ecco, da quello che lei mi dice, mi sembra di capire che si sta riferendo alla macchina del caffè. Il computer deve essere lì di fianco. Grazie per aver chiamato e arrivederci. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right. Yeah. casa. Mama, I'm coming home. Ozzy Osbourne. Proseguono i saluti ai neopatentati. Grande festa oggi. Alla puntata 160. Leo da Firenze, patente 909. Con questa dice: non rinnovo quella della macchina. Un complimento al maestro Fricantoni. Un giovanotto evidentemente intelligente. State attenti a sta storia di confondere la patente da vero rocker con quella della macchina, perché non fa bene, ve lo posso dire. Spero che abbiate in calendario una serata romagnola per le vostre serate, altrimenti dovrò fare carte false per la patente. Manuel, ci proveremo. Salutiamo anche Ale da Firenze che si complimenta, siete stupefacenti, grandi pay. Questo è un milanese che fa lo sborone. Saluto gli amici fiorentini. Da uno che ha preso la patente alla prima tornata, quando a Firenze viveva ancora Dante. Abbiamo Forlo, Imola, patente 654. Un saluto anche a Vale, che ha dormito 3 ore, però è super sveglia. Complimenti. Un saluto al patentato 348, che vede il tram in lontananza confondersi con i lampioni crepuscolari. Un saluto anche al patentato numero 1000. Figo la patente numero 1000, eh? Pupi da Viareggio, finalmente ho la mia patente, ero quello col chiodo vistosamente borchiato. Una sola parola, grazie. Ma vi ringrazio io, ragazzi, siete stati veramente, veramente splendidi sabato sera. Vediamo un po' altre patenti, poi proseguo. Buongiorno ragazzi, Chris da Firenze, patente 883, non so se mi spiego. Grande parte alla Flog, ma la mia dolce metà si è beccata la patente 740. Cosa sono? Patenti che svelano il futuro, si chiede. Pane, burro e Nostradamus. Effettivamente c'è da pensare su sta cosa. Uno c'ha la 883 e l'altra la 740, dipende se la tua amorosa è commercialista. Ultimo saluto, via! Lo sai, Ariele, che sabato in alcuni momenti somigliavi a Dandy Luotto? Enrico, patente 708. Ma la 666 è andata a qualcuno? No, no, no. Devo confessarvi che la 666 non è stata timbrata. Così, perché ci siamo spaventati della numerazione, l'abbiamo tenuta per un'occasione così particolare. Mancano pochi minuti alle 8:30, questo vuol dire che tra poco ci sarà di nuovo l'appuntamento con il test attitudinale. Io ricordo a voi contenti con la vostra nuova patente nel taschino di non fare troppo gli sbruffoni, eh? Non è che perché adesso la patente ce l'avete già non dovete più allenarvi con il test attitudinale. Ah, no, no. Diventare rocker non è come andare in bicicletta. Bisogna tenere l'allenamento. Se no si disimpara. Diventate dell'altro, non voglio nemmeno pensarci. Cosa ho risposto alla direzione quando mi hanno negato le ballerine di fila per pane, burro e rock and roll? No, e voglio saperlo. Ho risposto: me ne faccio un baffo, perché noi faremo un quiz. Esatto, noi abbiamo il nostro ariete, il nostro punto di forza, il nostro nerve. Sfondiamo l'ascolto con il test attitudinale di pane, burro e rock and roll. Il sancta sanctorum del programma pane, burro e rock and roll. L'apice d'ascolto della nostra trasmissione. Esatto, il quiz che vi permette di stabilire da voi stessi quanto rockettari siete. Chissà là fuori quanti sono appassionati della formazione Dream Theater. Oggi andremo a parlare proprio di loro, ma parliamo delle loro origini. Si fondarono a Boston nel lontano 1985 da John Petrucci, Mike Portnoy e John Myung, attualmente ancora militanti nella formazione, ma in realtà non si chiamarono subito Dream Theater. Sapreste dirci qual era il nome originale? Ipotesi A: Majesty o Majesty, e cioè i maestosi. Oppure ipotesi B: The Petrucci Project. Oppure ipotesi C: Progressive Dreams. Qual era il nome originario dei Dream Theater? Peraltro, inventori del progressive metal statunitense. La soluzione? Come al solito, ve la diamo tra poco, e cioè la risposta esatta poco dopo.